Generazione Mobile. Studiare e lavorare nel mondo. Di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Generazione Mobile, studiare e lavorare nel mondo. Tornano oggi i consigli dei nostri giovani attualmente oltre confine per un periodo Erasmus, appuntamento come sempre imprescindibile per fornirvi una guida pratica sulla mobilità formativa all'estero. La destinazione che vi proponiamo è assolutamente classica, parliamo della Spagna, paese che, come vedremo tra poco, è in cima alle preferenze dei giovani universitari europei. Come preparare la domanda per l'Erasmus, come affrontare l'approdo oltre confine, come inserirsi nel nuovo ambiente accademico. Queste tutte le informazioni che vi forniremo portandovi nel sud della penisola iberica, quasi al confine con il Portogallo. Oggi non perdetevi una guida radiofonica davvero straordinaria che vi abbiamo preparato all'interno di Toolbox, la nostra cassetta degli strumenti utili per espatriare. Vi spiegheremo le basi per cercare un tirocinio o un lavoro all'estero. Da dove partire? Presto lo saprete, non perdetevi l'inizio della puntata, ma nemmeno la fine di questa trasmissione, quando vi dettaglieremo con dovizia di particolari le opportunità di lavoro attualmente aperte in Europa insieme alla rete di Eures Italia. A chiudere, come sempre nell'ultima puntata del mese, tornano a farci compagnia le vostre lettere con le vostre richieste di consigli, quelle che inviate settimanalmente a generazionemobile@radio24.it. Continuate a scriverci, aspettiamo i vostri contributi. Generazione Mobile oggi si trasferisce virtualmente a Huelva, profondo sud dell'Andalusia. Venite al gate e l'imbarco del nostro volo radiofonico vi attende. Generazione Mobile. Lo spunto della settimana ci porta a parlare del programma Erasmus, approfittando anche della puntata dedicata al più famoso programma di scambio studentesco comunitario. Con un bilancio da 2,8 miliardi di euro, aumentato del 10% rispetto al 2017, il 2018 è stato un anno record per Erasmus+. 850.000 partecipanti, di cui 340.000 studenti universitari, a partire soprattutto i giovani francesi, seguiti da tedeschi, spagnoli e italiani, oltre 38.000. Lo certifica il rapporto annuale della Commissione Europea. La meta preferita dagli studenti si conferma la Spagna, paese che tra poco visiteremo con la testimone della settimana. Negli ultimi tre decenni oltre 10 milioni di persone hanno partecipato a quella che, sottolinea Bruxelles, si è rivelata per molti un'esperienza che ha cambiato la loro vita. Toolbox. La nostra cassetta degli attrezzi settimanale si concentra su un focus specifico relativo agli stage e tirocini all'estero. Per darvi un quadro il più completo possibile, ci siamo rivolti a un'organizzazione che da quasi 30 anni si occupa di ricerca, formazione e consulenza, con un occhio particolare rivolto oltre confine. Questa organizzazione si chiama Eurocultura. A Generazione Mobile parla Bernd Faas, consulente alla carriera di Eurocultura. Con lui partiamo dal punto fondamentale: quanto servono profili professionali di caratura internazionale alle aziende italiane? Dal lato dell'azienda italiana serve personale che si è sperimentato in un contesto straniero. L'Italia è forte nell'export e forte nel turismo di accoglienza. Per entrambi i settori serve personale con competenze linguistiche e con esperienza all'estero. Allora, andiamo nello specifico invece dei due grandi temi che potremmo trattare, che sono stage e lavoro, partendo dallo stage. Innanzitutto, quali vantaggi porta un tirocinio all'estero, ma in particolare come cercarlo? Questo spesso è un po' lo scoglio più importante. I vantaggi sono nello sviluppo professionale, perché applico la mia competenza professionale in un ambiente di lavoro diverso. Naturalmente, altro beneficio è quello della lingua. La posso collaudare direttamente in un contesto reale. Per cercarlo ci sono tantissime vie. Ci sono, per chi punta a uno stage presso le organizzazioni internazionali, ci sono le loro offerte direttamente sul sito, per esempio, dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite. Abbiamo per ogni paese dei portali dove le medie, grandi aziende pubblicano ogni giorno offerte di stage, e poi la via del contatto diretto. I tirocini ovviamente si inseriscono in un periodo che comprende gli studi, quindi ci sono due domande importanti che le faccio, cioè il momento migliore durante il quale fare uno stage all'interno del percorso universitario e anche la durata dello stage. Allora, il momento ideale è nel secondo o inizio del terzo anno accademico, oppure subito dopo la laurea. La durata dovrebbe essere di almeno 3 mesi, perché così arriviamo a un periodo rilevante in ottica dell'azienda italiana, ma anche dobbiamo renderci conto che con uno stage di qualche settimana ho difficoltà di inserirmi, perché ci serve sempre un po' di tempo per capire come gira in azienda e prima che posso dare il mio pieno contributo e anche acquisire nuove competenze ci vogliono qualche mese. Dallo stage al lavoro, le chiedo subito quali professioni sono più appetibili per trovare opportunità all'estero. Allora, in Europa, ma non solo, in molti paesi avanzati, il calo demografico comporta che ogni anno si aggiungono nuove professioni appetibili. In questo momento, parlando dell'Europa, le professioni più richieste sono quelle della sanità, seguite da quelle del settore alberghiero e naturalmente tutti i profili tecnici. E qui parliamo sia del livello accademico, ingegnere, informatico, civile, ma anche di tutte le professioni di qualifica professionale, dall'edile al conducente di camion. Si comincia veramente in Europa a cercare tutto. E un'ultima domanda riguarda invece i paesi dove lei consiglia di guardare per trovare opportunità di lavoro. Dobbiamo adesso, e gli italiani lo stanno già facendo in massa, raddrizzare l'ottica di ricerca. In passato c'era sempre la Gran Bretagna al primo posto del desiderio, però con il Brexit questa strada si chiuderà per molte persone. La Germania come destinazione da 2 anni ha superato la Gran Bretagna. In questo momento la Germania sta cercando 1 milione di persone. Però ci sono anche tutti i paesi un po' più piccoli, tipo Olanda, Danimarca. Il testimone. La testimone della settimana è una studentessa 21enne attualmente in Erasmus a Huelva, sud della Spagna. Miriam ha scelto di trascorrere un periodo nella città andalusa per approfondire la sua formazione internazionale e oggi è qui a portare i suoi consigli su come non sbagliare neppure una mossa all'atto di partire per l'Europa. Buon pomeriggio, Miriam D'Avanzo. Buon pomeriggio. Allora, perché hai scelto in primis di vivere un'esperienza Erasmus? Cosa ti ha spinto a sperimentare in prima persona il più noto periodo di scambio all'estero? Io ho deciso di vivere questa esperienza in prima persona perché sentivo spesso parlare dei ragazzi più grandi appunto di questo loro Erasmus e ho sempre pensato che sarebbe stata una delle esperienze più belle, quindi vivendola in prima persona puoi renderti conto di quanto sia unica e indimenticabile e ti rendi conto di quanto sia diverso speciale il mondo in cui viviamo. Perché hai scelto proprio la Spagna per trascorrere questo periodo? Come sei approdata in Andalusia? Ho scelto la Spagna perché lo spagnolo è sempre stata la mia lingua preferita. Ricordo che quando frequentavo la scuola media mi feci dare dai miei genitori un vecchio libro di spagnolo e passavo appunto il mio tempo libero a studiare questa lingua. E l'Andalusia, beh, per il clima e soprattutto la sua vicinanza al mare. La fase prepartenza, questa è molto importante per organizzare il proprio Erasmus. A chi fare riferimento per presentare la candidatura? Per presentare la candidatura bisogna iscriversi ad un bando apposito che si trova online sul proprio sito dell'università, però per poterlo fare sono necessari alcuni requisiti, ovvero bisogna avere un minimo di crediti conseguiti, bisogna avere la regolarità negli studi, il profitto e un certificato di lingua. Dopodiché alla pubblicazione della graduatoria, se risulti appunto idoneo, è a disposizione circa una settimana per accettare la destinazione che ti è stata assegnata. Cosa consigli di fare per non sbagliare, inevitabile ovviamente, tra fila burocratica?

Tutti questi profili partono da uno stipendio base lordo di circa 2.000 euro con vari benefit che vengono dati al lavoratore e alla lavoratrice che poi verranno selezionati. I requisiti richiesti sono fondamentalmente un buon livello della lingua tedesca, che per gli addetti al ricevimento deve essere almeno di un livello C1, per i commis de cuisine chef può essere anche un B1 e per tutti gli altri profili un B2. Il titolo di studio deve essere inerente al profilo ed è necessaria l'esperienza del ruolo. Per candidarsi, inviare il curriculum e la lettera di presentazione in inglese e o tedesco entro il 4 marzo 2020 a eures@venetolavoro.it, specificando nell'oggetto il profilo per il quale ci si candida. Non verranno prese in considerazione candidature presentate secondo modalità differenti rispetto a quelle indicate. L'evento si terrà indicativamente dalle 9.30 alle 17. La sede sarà comunicata solo ai candidati e alle candidate selezionati. Ricordo anche che aggiornamenti eventuali relativamente allo svolgimento dell'evento saranno presenti nei social collegati a Click Lavoro Veneto e a Eures Veneto, oltre che aggiornamenti anche sulla pagina Facebook appunto di Eures Veneto e di Eures Italy. Internet Point. E siamo giunti ad Internet Point, lo spazio di Generazione Mobile dedicato ai siti, ai blog e alle informazioni utili in rete create dagli italiani all'estero. Torna anche questo mese l'appuntamento con le missive che inviate settimanalmente alla casella email generazionemobile@radio24.it. Lettere che alimentano la nostra community radiofonica dove scambiarsi informazioni per studiare, lavorare e vivere all'estero. Invitiamo fin d'ora chi abbia risposte per i nostri ascoltatori a scriverci in modo da poter girare loro queste dritte. Ascoltiamo adesso le vostre testimonianze, le vostre domande e le vostre richieste di consigli. Buongiorno, sono una vostra ascoltatrice. Gentilmente vorrei avere qualche informazione su fondi o domande da poter fare a tassi agevolati. Proprio ora mio figlio, laureato in Business and Economics, è stato ammesso ad un master alla ESSEC di Parigi. Considerate tutte le spese da sostenere per i 2 anni di master, potrebbe accedere a qualche forma di finanziamento? Vi ringrazio anticipatamente e vi invio cordiali saluti. Deborah. Buongiorno, ho 24 anni e mi sono laureato da poco in chimica e tecnologia farmaceutiche all'Università di Modena e Reggio Emilia. Grazie al progetto Erasmus ho avuto la possibilità di svolgere la mia tesi sperimentale a Parigi e qui ho fatto la conoscenza di un ragazzo di origini cinesi che ha acceso in me un forte interesse per l'Estremo Oriente. Ora che ho completato il mio percorso di studi, mi sto quindi informando per capire quanto quella che era una semplice idea possa diventare un vero e proprio progetto futuro. Vorrei chiedervi se ci sono fonti, programmi, podcast o personaggi che potrebbero essere utili ad approfondire le varie sfaccettature di Cina e Taiwan e darmi un'idea chiara di cosa potrebbe aspettarmi qualora decidessi di intraprendere questo percorso. Vi ringrazio molto dell'attenzione e rinnovo i complimenti per la trasmissione. Davide. Buongiorno. Sono uno studente del primo anno di economia in lingua inglese. Ci terrei molto a poter passare qualche mese all'estero già la prossima estate, svolgendo un qualche lavoro. Preciso che possiedo già una discreta conoscenza dell'inglese e che desidero migliorarla. Vi sarei grato per indicarmi enti o siti a cui potermi rivolgere per ricercare e scegliere possibilità di lavoro come quella di mio attuale interesse, cioè in un paese di madrelingua inglese per un periodo limitato a qualche mese. Vi ringrazio fin d'ora per la risposta e vi saluto. Brazos! Chiudiamo la puntata con i nostri input. Per interagire con noi innanzitutto ci trovate online sul sito di Radio 24, sezione social, su Facebook nel gruppo Generazione Mobile Radio 24 o nella pagina Generazione Mobile. Siamo presenti anche su LinkedIn, sempre col gruppo Generazione Mobile, e ricordate anche di scaricare i nostri podcast, lo potete fare direttamente dal sito di Radio 24. Questo vi permetterà di recuperare tutte le informazioni utili che potreste esservi persi nel corso della diretta.